bentornati, cortocircuito, Circuit Gang nel posto come al solito, sempre come al solito a Radio ZAM. Oh, oggi torniamo un po' a mixare live. Sì, perché signore, una volta che è finito il lockdown qua, di mandarci i mix che noi li mandiamo non è più così tanto figo. Venite a suonare qua i vostri live set, i vostri DJ set e anche i bonghi, se ce li avete. No, i bonghi magari no. Atteniamoci ai live set e ai DJ set, sennò poi è un attimo che arriva la gente con la tromba, con l'ocarina, col triangolo, cioè. Rimaniamo sempre sulla musica elettronica. Questa è cortocircuito, ricordatevelo. Tanto per dare il buon esempio di come si mixa live, a sto giro ci pensiamo noi. Saremo io e Sbume, io sono Sushi, in caso qualcuno mi debba dei soldi mandatemeli che sono disperato. C'è anche Sbume, a cui probabilmente invece qualcuno deve chiedere i soldi che gli deve. Beh, questa è un'altra storia, vedetevela con lui. Allora, party people, oggi si mixa live, ci sarà un po' di drum and bass, un po' di techno, un po' di questo, un po' di quello, un po' di tutto, quindi tenetevi forte che oggi si balla. Yeah. spume. Si nutriamo. E dai, di nuovo in onda qua, cortocircuito nel posto, ci stiamo scaldando, non che ce ne sia a dire la verità bisogno, perché c'è un caldo della porca madonna oggi, ci abbiamo anche le mutande bagnate, ce le strizziamo sulla testa per rinfrescarci un po', ah, che brutta immagine. Non tanto per la cosa in sé, quanto per le mutande di Sbume che sto immaginando. Sbume sta arrivando perché lavora come un bastardo, quindi non è ancora qua. Però io, giusto perché sono corretto, voglio aspettare che sia qua per... stavo per dire per mixare, ma fondamentalmente posso fare anche da solo. Sto aspettando che porti le birre, perché lui deve portare le birre fredde. Si sta morendo di caldo. Ma noi continuiamo a spingere, cominciamo a alzare ancora un po' la temperatura. Yeah! Imodium. Imodium blocca la diarrea, la musica di merda e la voce di Sbume quando ascolti i vocali. Imodium blocca la diarrea, le persone che ti parlano e intanto ti toccano, blocca i posti di blocco, blocca lo sbocco, blocca un sacco di cose che fanno rima per occo, popalocco, sciocco. Altre parole che fanno rima con occo, scrivetecelo pure alla pagina Telegram di Radio ZAM. Dio, se mi stai ascoltando, piglia le belle fredde del birre. E se arrivi qua e sono tiepide, ti mando a prenderne altre al Bangla. Pezzo di trimoni. Quel bastardo di Sbume non è ancora arrivato, con le birre tra l'altro. Io mi sono cagato il cazzo di aspettare. Arriva il momento di cominciare a scatenarsi bellamente. Signori e signori, questo è il momento della drum and bass. so se lo sai. Ti hanno mai detto che cortocircuito è la trasmissione più adatta da sentire mentre ti fumi una birra e ti bevi una canna? Cortocircuito. Swag. Oh, ZM. We'll be right back. the cop killers filling up to the top. Di fare questa cosa qua, poi alla fine non sono riuscito a preparare tutto, gli ingredienti, e quindi insomma ho scelto di venire a fare un po' il minchione, e quindi, sì. Insomma, niente puntate, cioè niente cortocircuito versione culinaria, purtroppo no, dobbiamo rimandare la prossima volta, fa troppo caldo e stare vicino alla cucina, insomma, è pesante. Aspetta un attimo. Posto. Questo è dedicato a te. Questa è la ricetta al contrario, incomincia dalla digestione e poi vi spiego al contrario come fare gli spaghetti.

cortocircuito è offerto da Imodium. No, no, no, no, no.

prendersi bicicletta usata, che ha percorso 10.000 km a 750 euro, prezzo non trattabile. Grazie. Per il problema dovuto a degli errori tecnici, perché mi sono appoggiato al crossfader. Ci soffre il caldo, regaleremo. Allora, stiamo facendo una colletta, se, adesso nel 2020 si dice crowdfunding, per raccogliere i soldi per regalare un condizionatore a Radio ZM. Quindi indico ufficialmente in questo momento una colletta. Niente, scriveteci e raccogliamo soldi, perché fa un caldo che è veramente, come si dice a Milano, la metà basta. Ecco, insomma, se volete scriverci alla pagina di Telegram di Radio ZM, diteci con precisione quante migliaia di euro volete donarci per comprarci un climatizzatore che monteremo qua sotto la scrivania, direttamente sulle palle di sbume che stanno accaldando. You waste away scrambling like a hellraiser. And yet you pulse with each waking moment, knowing that you're reaching your breaking point. Spawns of inner demons clashing for your soul. Tearing you apart at the very core. Mandalo sto rutto. È vero, aspetta, sushi, mandiamo il rutto di Ruby. Mandalo sto rutto. Oh, è vero, aspetta, sushi, mandiamo il rutto di Ruby. Ok, al prossimo drop. Breaking point. basta, finalmente Spume dopo un'ora che qua riesce a chiudere una canna. Scusa se poco. Cortocircuito. cortocircuito. Lockdown in effect. se quelle volte che sbagli togli il disco sbagliato, che quando c'è silenzio invece di dire che hai fatto una figura di merda dici Clit Up Selecta. Cosa? Lockdown in effect. fire, and emergency medical services will be unavailable until tomorrow morning at 7 a.m. when the purge concludes. Blessed be our new signori founding fathers and America. E signore, per la prima volta su Radio ZM, sbume. We'll be right back. dead before you find out, dead. We're all to blame in this system that proved devotional physics and bias action. Siete su Radio ZM. Back into chaos, and I will not let that happen. Questo è cortocircuito. I want to understand what terror really is. We'll be right back. Difesa di sbume, c'è da dire. shame and hiding face in a disgrace. So me I make them know say, this is the official More Fire remix. I want to go on DJ Freeze. I want to ask this word right. Read him up and level me this tune there. And this is the one your name. Catch a come give me the dollar. Hey, more fire, baga wire, please the liar. Catch a kaya, come give me the dollar. Hey, who the mafana, the godfather, I'm the founder, the vice bringer, no get the ring and who the mafana, the godfather, I'm the founder, the vice bringer, no get the ring and pants on again. But I'm on my life again. That room in the marijuana. Step in on me, they can swim with the piranha. Anytime he drop me, go put on a marker. If it no money, say where them bad attack for. Then we try to roll up a bank with a banana. Yeah, we pretty well think. We a killer bubble crack again. Got the things unlocked again. The butter 10 shots and again. The pan of old pants on them again. And I dash them and light them again. Become that iPad again. And I'm ready for the war. If it comes on top, coming out, I feel frightened again. We a killer bubble crack again. Got the things unlocked again. The butter 10 shots and again. The pan of old pants on them again. And I dash them and light them again. Become that iPad again. And I'm ready for the war. If it comes on top, coming out, I feel frightened again. Do you want it? I said if you can, somebody can, baby. He's a gigolo. Oh yeah, I'm bad, baby. D-A-D-D. You can put some more D's in there if you want. That's how bad I am. I got a thing, and it's ready. It's hot. Oh yeah, I come on, baby. Oh, I'm ready, baby. Come on, girl. Yeah, I think I like that better. Yeah, do that again. Ooh, that's bad. Yeah, that's hot. Come on, roll it. Yeah, I'm gonna get the car started. Yeah, you just wait right there. Oh yeah. Oh yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Bentornati, bentornati, buonasera di nuovo a Cortocircuito. Siamo arrivati alla fine della puntata, stiamo per andare a casina. Mi raccomando, voi andate a nanna che è tardi. Andiamo a berci una birra da qualche parte e a dire un paio di cazzate. Non che adesso abbiamo fatto qualcosa di diverso. Signore e signori, tanti saluti. Tanti saluti a voi, è stato un piacere. Ci vediamo alla prossima puntata di Corto Circuito. Thank you. Oh,